subito, sì! Cameri! Ehi, UACC! Chi è? Sono Bidrombe. Ehi, e beh, dormitoci, sì! Oh, Virgo! Dietro le cortine, passeggiando. Che? Da un'ora e mezza, vero? Passi in gente, mamma di gioco a salto, non aveva più gamma di camminare. Ehi, hai fatto bene. Ah, io ero su scendere fuori di la dea di Paoletta, di la dea Bette, per ritirarsi di striscellare in farmacia a chi non se la cattava, già ve l'ha già avuto. Ah, non sei uscito oggi? No, non arrivava, era mai uscita a Bavetta come figliuta, io no. Ecco. E vabbè. E io mi sono fatto la passeggiata al Comanzano. E da voi stasera. E a chi stanno ieri, che c'ha dentro casa, gatta, uff. Allora mi sono raggiunto e mi sono la passeggiata, capito? Alla macchina anche mi fa vedere un po' poco male, capito? Ci andava. Ma io no, che sto cadendo nei torrenti, prendi, dunque là che gli avevi muovo, no? E sto confusato. Allora che tracco mi posa, la paghi, i regitali, lo fai vedere, se c'è il buio da va, mi sono confusato. Noi che sto confermo, sto cos'è prendendo il torrenti. Ma di domani, no, rimane a sera, ha giubricato il terrazzo, ieri ho mollato il filtro, a chi non vorrebbe uscire, un morsetto l'ha giumollato, non mi ha trovato a pagare l'omano, e mi ho cambiato il filtro. Ma se bisogna fare, se no è che dà ragione. No, ma anche io mi scendo magari in magazzino a prendere l'acqua, oppure magari a prendere qualche altra cosa, risalgo, magari dopo un po' serve un'altra cosa, scendo, o ci butto la mondetta, cammino io burro, non sto fermo, capito? Guai, già che sono così tanto malandato, se mi fermo non cammino più, nonostante mi fate male, il bianco sinistro, vorrei, ti va a cercare il calcolo, cosa ne so. Però io ho tre chiedi con vista, ci sono dolore, e quando mi muovo un bel, mi dormi. E allora mi fermo, mi basa, se mi basa un po' come basa, mi avanti passo io. Però se mi vedo rapida, torna a camminare veloce, andare nel freno, mi fate male, complice. E poi a camminare, mi sento mutinato, e oggi, tu mi andessi, no, per carità. Non mi lasci manco un cuore di falafi, no, per carità, push. Sì, certo che... ma tu già fai l'ascensore, magari sarebbe più bene, è più facile, capito? Io invece sono 40 carini, ma fare così, ma comincia a pesarmi a me pure, capito? Specialmente quando tu sei pesante, che fai roba. E ho già piano rotto, mi fermo e mi riposo un poco, capito? Certe cose pesanti non è che riposo o pigliare altro facilmente, però ogni piano rotto mi fermo e piano piano mi rilasso. Già se mi figlioro pure che queste cose mi rilassano, capito? Però quando lo vedo che è travagliente è chiaro che mi serve, devo fare io, però al manco qua si fa e un po' di movimento li può fare, capito? Sì, no, io pensi non li posso pigliare, oggi ho fatto la prova, un cartone di leva, ma fa, desi basse, era l'ingappura, canto sono carabinù, io sono la gianna dell'ascensore, e ne ha già stato da io sul garage. No, non fa, mi viene sulla panna, non mi vede, sono diventato bianco, niente di ora. E non respiravo più. È un macello, eh. Un macello, certo. Beh, a me ha cominciato un anno feo quest'anno, Da febbraio ho cominciato a che ci i corsi di Riprazzi, i zingari di Riprazzi. Prima ero dritto, da poi piano piano ho cominciato sinistro e poi mi sono tutti e due. E non riposto, ma secondo me ti giro il braccio, non ve la fai a piglia niente, capito? Si fa di verricelle. E più mi sono per tutto il bacino, il bacino, grazie. La notte, ma con qua da un fianco, un po' si sa, sempre la gira che ti gira, gira che ti gira, e cosa vuoi fare? Quindi questa bacina è terrorifica, una di sì, una di no, però ti basta magari un poco, ti alleggerisce magari per una di e mezzo, la puoi tornare a cominciare, sono così da febbraio, da febbraio, non può passare assolutamente. Ma mi tocca questa volta, più a mira. Cazzo, casino, per carità. Devo mi ammazzarlo, mi invece se fra maldecchina, mi ammazzano, va, l'accusa era Romasteras, va, via Giambato Romasteras, ha Giambato la rete, va giù la rete tutta in legna, che l'alzo, ho la testata, alzo i piedi, barugoni. Tu materassi di tu antiaca di tu che cuccia un bel era tutto il primo lì il maldecchino io vi lancio sempre a chi non fa entrare a chiedere e dall'ernia del disco che c'ho faccio 5 ernie del disco non ho compreso altro che non fa entrare da materassi e ogni mattina mi rimetto a maldecchino ma più la cura a pesarmi. Io avrò posto male a girare un materasso. Oi! Si abbiamo fatto male tutti i rossi, li guidi mi fate male, tutti i rossi di rimani mi fate male, cazzo, ci sono così senti. Si mi ha pigliato male, mi ha pigliato male, cazzo. Oh. Allora la notte, no, e sto così, parlo di lei, ti gira che lo puoi chiamare qua quando ti si fate male lo vaccino. Abbatti che ti cocchi, mi dirà si abbatte e abbattersi cose. Poi lo mazzano anda a pesarmi lo fornisce, mi deve aggiustare con i quindi piano piano e pago un infallo in balla. Però da poi magari comincia a camminare, magari e di manco, capisco il dolore. Però mi fate una male pure i zizi rimane, cazzo, io lo faccio. E lui puzzi, insomma tutti i rossi devono fare male, la giuntura, sai. Perché tu c'hai la sofferosi, vai, puzzi. Ma hai compreso, c'è la sofferosi che non fate, anche a me. Io faccio la sofferosi, mi devo bacini, un agnadino me la butto. Tu c'hai la sofferosi, se ti rovini tutti i rossi così, è sofferosi, chissà, se ti fa la visita. Ma vedi per la sofferosi, vedi che il medico ti dice che c'è la sofferosi e ti prescrive la pasta. Ma infatti abbiamo lasciato la dottoressa e fino a un po' che posso fare tutte le analisi. Questo comincia a essere seria. E più sta andando più sta diventando, così che proverà. Da febbraio ha cominciato. Prima lo braccio sinistro, dritto. Da voi si deve magari si spostato lo sinistro oppure allora ha fatto quasi male più secondo sinistro che lo dritto, però se ci vede certi giri non lo puoi fare, secondo come ti dice una cosa devi fare la mano poi devi fare le ricelle, capito? Ma sono tutti e due e più lo vaccino di la giuntura di rimane delle dita di rimane cazzo. Insomma ma forse va la visita vediamo un po' se ne sciapisce io ero così mi al comizio e io credia che era la sciatica che mi tirava pure l'anca tutto il bianco mi faceva male e lo vaccino allora mi ha prescritto a fare quella visita al bacino che in genere chi si avvicina più la fanno le donne ma viene detto a me e me l'ha prescritta e me l'ho fatta e gli ho pensato qui Ma ha detto lei c'ha l'osteoporosi anche già avanzata. Ah, non se ne è accorta, la vita non è sciatica, che dipende. No, no, altro che sciatica. Chi c'è l'osteoporosi? Lei c'ha l'osteoporosi. E dalla volta mi hanno prescritto le pastiglie, prendo la pastiglia ogni sera, no? Una a radio. E chi c'è un po' come t'aggiunta, ma noi chi ti rubati ma sanno, te lo fa più leggero. Ehi, mi va a partire, infatti io, ma riesci a camminare più bene, dai, ma se non mi va a partire come ti oggi per esempio, chiari notti non l'ha giubilato, allungare un bacio proprio mentre va allungando, non riesco a allungarlo lo bacio, ma che mi fa filmare, gatto, la giuntura dell'anche, il rubaccino, capito? Macello, alla fine devo andare alla dottoressa a farmi l'impegnativa e poi avrà già andato all'ortopedico di nuovo, un altro all'ortopedico a vedere un po' cosa mi dice. Ah, che da maldici, sì. E dice, i dottori ci sono, dice, non c'è niente a fare, dice, faccio un po' di movimento, un po' di ginnastica, cosa fai, cazzo, di ginnastica come ti sono coperto, che basta, la fede, cosa mi dici, che mi posso fare tutte le analisi, capito? Io l'ho fatta a San Pietro, al Palazzo Vecchio, chi sa visita, al primo piano l'ho fatta. E mi hanno riscontrato la osteoporosi e l'ho fatta anche da poco, mi l'hanno passato, mi fa, la giudurà da ripetti. E mi ha detto la matessa in cosa, dipende sempre da lì. E mano a mano la osteoporosi va e si allarga, di mica tutti i russi, di mica, la complice. Si consuma nei mille, in la giunzione, dove c'è la cartilagine. E allora è pagato che ti duri, si consumano. Ma ha già fatto la lastra, non te, chi c'ha mai detto, dice. Dice, sono tutti gli attrusi che c'ha lì. Attrusi, cazzo, boh. Cazzo, cazzo. E ricordo, e le zendine, gli fanno dei bracci sopra. Attrusi su chi. E dice, sono lesionati. E infatti cioè i tenderi sono tutti e due lesionati, capito? E che fai? Non puoi fare manco fisioterapia, che cosa fai la fisioterapia? Ma che fai? Cazzo, non riesci a mancazzare un braccio. E sì, e poi lesionato, ti fai sempre male, pure fai il tuo travaglio, ti fai vedere i celli come secondo il movimento che fai di braccio, capito? Ma ti fai vedere i celli, gatti. E a me lo dì, nati uno che mi scrocca, quasi mi avaravalla già stata fatto crack, fra 5 minuti un dorassetto raffa crack, mi fate vedere le stelle, e dare un braccio dentro, e là sulla spalla, dì, quasi crack, e lì ho fatto 3 mesi di filtrazioni e chi su... è l'elettrico mi ha arrivato, passa 3 mesi, 6 mesi, andando a tornare a ripetere ogni sera. E beh, alla fine era sempre la stessa cosa, mi ha detto bisogna fare l'intervento, però io non mi prendo la responsabilità, perché lei c'ha troppe patologie. Ecco Fritz, così mi ha detto. Beh, infatti, quando fa tanti cose uno... non è che fa l'operazione, una brava, cazzo, non conviene, no, grazie, perché quando ci sono tante patologie in mezzo, peggio ancora, capito? E non sono tutti che bilano la responsabilità. E tu fai tante cose, ma te sì. Ma io praticamente sono andato sempre messo, grazie a Dio, sono sempre normale, ma non. Prima magari si alzava le celle, perciò sono sempre, dall'anno dopo sono sempre normale, capito? Sicché però sono questi dolori, questi dolori, già che ha già avuto che discendente da cagione dell'albero, e lei ho messo già tutto da che si mette in un bacino, capito? Perché io quando ho le fratture lo vaccino, gli passi di buttare il bovino tranquillo e pacifico, però non mi buttate manco altri insane, manco mobili, capito? Mi devi dare i mobili per girarmi a fare i cibi di rifaccio, cazzo, puoi immaginare? Forse dipende tutto dai vivi, capito? Anche quello già coincide sulle ossa, pure dai vivi già contano me stessi. Eppure io sono andato anche da un altro e mi ha detto la stessa cosa e mi ha detto vita, che lui responsabilità non se ne prende perché lì c'ha troppe patologie e anche se gli faccio firmare il foglio io non gliene faccio lo stesso. Responsabilità non è vogliamo, è nominare il vato. A tre cose sono andato, e nessuno mi riposo così, capito? E allora ve la Giuseppe, così è casa vostra, muta. Infatti che vino il trinino manco la mano, che me ne farà tutto. Bisognino posso migliare manco un pezzo di bambino con questa mano. Infatti in casa tua è vero, fai tante battaglie per cui è un bel pericoloso, non si mira la responsabilità, ecco. Ma io sono solo cucito l'ore, da febbraio ha cominciato, da febbraio hanno incominciato, piano piano hanno un braccio dritto, non tiene il braccio dritto, non ho qui, l'altro mi tira un gusto, chi, non tiene di chi, cazzo. Dice lei c'ha i tendini lesionati che hanno fatto le lastre, e più hanno vaccino, pure hanno vaccino hanno fatto le lastre. Ma il suo dice già tutte le artrosi, dice ciao, dice il vaccino, quello l'altro, cosa puoi fare? Non puoi fare niente. E dice purtroppo, dice ci sono, ci stanno i dolori, se puoi immaginare. Allora, anda, un'altra vede cosa mi dice, boh. Ma l'artrosi c'è una cosa. Tu la vai, deve avere pure la soporosi, tra sicuro sicuro. A che io viaggio l'artrosi non mi stessi. Però, gli dolori che mi vengono pure alle aree bianche, e alle braccia, e alle buce, e dalla soporosi. Già è pure l'artrosi, però il più è anche... la soporosi, capito? Chi si consiglia consumare, dimmi le aggiunture. E allora è logico farsi male. Va via, va giù un pollice che fa di tic-tac, tic-tac. Non mi arrivate né manco i sacchetti, non si pigliava le responsabilità. Va giù il pollice della mano sinistra. Fa di tipo scrocca, mi fa tac tic tac tic, così fa. Casotto è un macello, quando mi cocca un fianco, no? E là ci sono uno sopra l'altro. Dare un giro ci sopra, fino al bacino, mi pare che ci dolore, come se ti stracca una cosa gatta, e non ti fa di riposare, ti giri. Dai, c'è l'altro buco, così alla sabata e la stessa cosa, sono tutti e due alla stessa cosa, capito? Solo a panzinastro, magari non mi fa di male, però se mi cocco a un fianco guai, però quando mi bocca a panzinastro, mi prassi, non c'è altro che fare male, mamma mia, cazzo, lo sai come te bonito, capito? Come te giri lì, perché secondo lo movimento fa di male, secondo lo movimento non ti fa di niente, capito? Posso un po' a dreccia, un po' a passanato, un po' a sinistra, di bianco. E così mi si trovo, ho provato a passare a terra ma non riesco a respirare, manco con l'ossigeno. E la fuga è lì, ho provato da poco di nuovo, non fa. Allora posso un po' che passa in alto, che sto cadrumini, un po' gira da dreccia e un po' come gira a sinistra. E mi si trovo così, gira a dreccia, a sinistra, passa in alto. E poi mi si trovo, ma solo che io non trovo a tutta la strada, io trovo un'ora, due ore e so che già è scendato. E poi avevo un'altra ora, ma dormimi ed è già mazzanito, picca e mini bis. A che tanto vuoi tu tagliare che ti dica? Boh, Marcello, un macello. Ma il salotto magari è bibito la bacchiglia, ecco. Domani mi fa un po' con il bel, capito? Forse magari si è dalla bambina faccia e cazzo, deve stare attento per aiutarmi a farmi tirare una mano per poter lavarmi la faccia, oppure con la strada, puoi immaginare, secondo il movimento che fai, non riesci a lavarmi la faccia, cazzo, boh, cazzo, così ho cazzo in modo il pantalone o il pigiama, cazzo, chi iri il braccio, no, cazzo. E io ya basta va per di dai ci va bene dolore dolore va ehi ma io ehi sapete il cavolo dello zeppo non sai bene ma come ti vicini stamani ero in felpa a vasso che ho in maglietta su boh roba a macchi avanti ci che ha finito a fare tornare tempo feo a ne bili comprizzo ehi. No, ci sono più freddo io, se poi mangio faccio un pigiama, ancora maniche lunghe. Dopo mi sono smutto la testa, mi faccio la testa, faccio un frangioccio, pure io non sono in casa di me un medicato, però se mi sappo mi viene la doccia, non la fine più dopo, perché mi sono così, per tu caso sono con la testa, capisco. A chi si sente freddo, si sente freddo, ti puoi immaginare, per cui io no, ma c'è tappato, io sono tappato, quando esci mi muovo il giubbotto leggero, e più la maglietta, e faccio la maglietta a mani che costi, chissà fini fini, e più mi muovo la maglietta a mani che rocco con il giubbotto, capito? No, io ho la maglietta di sotto e il giubbotto della tuta che è bel fatto e faccio un pantalone di la tuta, i calzetti va via a livelli, li giappati ma va via a freddo, appena mi ci butto le volte da tennis. Beh, quelle volte da tennis li attocco più bene, a chi in giappati va via a freddo a piedi, aiutava a messo già con le volte, così ha giù fatto, e con le volte ha tocco qui. Ehi, ripeti, faccio, gli dici, manni, di tutti i peli, e chi si vedono uomini, e sempre ghiacciati, pirati, tutti e due, e ciò che c'è più movimento, con i dici, no, magari che quando c'è il movimento non ti fa, non intendi, non intendi niente, sei tranquillo. Come se si ferma, allora comincia a intendere leggermente un po' di dolore, capito? Come se dormissi. No, fra, io ripeto, ma già fatto, mi ha ghiacciato, però in gabbati, intendi all'aria, ripeti, mi freschetta e fatti, e tu la metti in cucina. Compreso, però stamani la metti in camera da letto, in salone, in bagno, e mi la più aria. Ed eri in giabbate, e allora diceva che poco le volte la digni, e ma di queste volte la digni se l'aria non la intendia, compri. In giabbate invece sì. No, in giabbate ancora non me la giubbuti, Faccio così, che si volte a cosa, a tancato, con la chiusura a lampo, faccio. Ci sono leggeri, sono imbuttiti, capito? Sono imbuttiti, sono vespati, prezzo. Chi ci va ancora io? Infatti quando fa la giosso c'è sempre questi volti, questi, anche questi volti a giocare non riesce a cambiare ben pure, capito? Con i giabbatti ancora no, ancora me ne poco i giabbatti. No, il francese no, io faccio freddo. Beh, io questo freddo un attimo più poco, capito? Faccio i giabbatti per freddo ancora, che ancora per freddo è. Vi lavi a Burghi, sì, con la bellicetta dritto, bianca, e tutto l'inverno, però che si mi ha giocato e ce li ho buttati, l'avevo più sul bacia, e che si mi a settembre ottobre me li dovrà comparare, a chi ce l'ha trattato tutto l'anno, l'avevo più sul bacia, e quando mi puri a lavare, e buoni arazzi, però ce li ho buttati anche a pure alla valle, se ho pure curita, scolorita, non mi piace la nebbia. E la rivolta mia ancora, ma se era in mezzo scolorito e ce l'ha giù lampato. Ah, adesso a settembre mi ripiglio un uvi, tanto io ci era gatti sempre. No, queste volte fa sempre lo scarponcino, è pure, pure io per la maggior sono mi butto con questo. Sai, qualcuno che se piova ora, chi è che vuole entrare avanti? A parte che vuole entrare questa ora, ma si sente che stiamo parlando? Io non lo intendo, non intendo a nessuno. Ma io lo intendo, quando si fa vedere tu ti soffriamo tu leggia. A parte vuole entrare, me lo bei. Boh, lo senti. No, avanti, adesso non c'è. Avanti, fe. Oh, non intendo a nessuno, manco... Ma niente, solo a te intendo, boh, Luca non l'ho sentito, la giudiamo a Danzuga. Ma non credo sia Luca, non credo sia Luca. Avanti che vuole entrare, e chi è questo l'avanti per all'aleare? Ah, puoi dire, riprese, grazie. Se non vuoi entrare, tu lo intendi bene, ora, con rumore, sento niente. Ma ti vuole entrare, ora, lo senti, Giammaro? Ha fatto altre due volte, ora, però non può entrare, si vede che non dà gara. O si sente male? Avrà mal di ora, siedi di ora. Luca, ma sei andato a gioca oggi o no? Io era appena entrato alla una e mezzo, mi pare, alla una, a casa sua, si doveva preparare a mangiare Luca Manicugno. E infatti mi ha mandato la fotografia, si ha fatto la barzetta impanata in forno nella tiglia. Ah. E mi ha mandato il video, la foto della teglia in forno. Oh, e beh, quella fotografia che ho mandato io è arrivata a te, me l'avevo fatta di notte da coso, era proprio un compleanno ieri notte, e me l'ha rifatta, arrivi da me. Ma chi c'ha avuto? Ehi, tu sta femmina, so che io gioco. Ehi, già la giuvincia sta male, curi bene i rogli. E allora, penso di tre furi, fate questi cose del genere, no? E te la mia nipotina, me l'ha fatta mia nipotina ieri notte, capito? Già non so, è pure mio che faccio. Tutti li fate nei telefoni. Ha giusto chi si figuri che mati, la giugia ammazzo, non si vede. E vedo figure di attori, di cantanti, di gente. Ma. 5 minuti mi ha sento, grazie, che quando c'è capicolino. Vai, ciamma, dai nomi. Ok. Con comodo mi, però. Ma tu eri ora, me lo fai. No. La verità no. A che ora non rintigliate, Maria rintigliate il tuo laura, la vita viene avanti, non sei entrato, per giù paese. No, sono andato adesso, la verità, si dica. Sto scendo sulla spina a comprarmi una cosa e poi sto salendo, non vado subito a casa. Apriate la bionda, sei parato, però bene. No, adesso me la prendo la bionda. Hai capito? Me la piglio adesso. Poi piglio anche qualcosa da mangiare di buono questa notte. Ehi, no, io già ce l'ho. A pranzo mi ho fatto spaghetti con il sugo con la salsiccia e a secondo ho fatto come si dice? Diamante si chiama, tipo il coso, il calamaro, fatto fritto, il salato è fritto, tipo il calamaro fritto, però si chiama Il Diamante. Capita, io non mi ci c'è di giro, ed era c'è di giro un chilo a pisare. Sono grandi. Sì, grazie. No, no, quello che compro io. Un salano. Sì, guarda, mia moglie mi ha detto, oh, a chi non posso decidere, andare a dare, mi ha detto, vai visto che è tipo un calamaro. Cosa piglio? Il calamaro, lui dice, piglia chi su, non avrà pesato un chilo. Invece ha pesato un chilo, 16 chilo. Però è buono, cazzo, è buonissimo. Ma sei uccido, ma stai scherzando? Oh, non ce li ho io, sei uccido a spendere così, non esiste. Questo uccido va ai cinesi e mi compro qualcosa di buono che mi serve, no? Più che altro. Va bene, se noi ci bisogna di comprare niente di subito, no? Una volta ne ha dato gli altri, tanto baciamba. Quel pesce lì costa così bianco. Metto te che la puoi prendere. Io, assolutamente no. Non ce la penso come ce l'hai tu, no? Quindi, no, non posso permettermi di fare una cosa del genere. Lo sai che se dovessi andare con la carta del di cittadinanza a fare una spesa del genere, pigliamo per scemo, cazzo, me la bloccano subito. Ma stai scherzando? Non lo saranno. Da lo sì posso fare le spese al Comas, quello che è, ma non così, ma allora mi viene proprio, cazzo, a un certo punto me ne tolgono tutto, me ne tolgono, dice. Cazzo, dice, bello, esaurito, bello esiliato, dice, con il tuo di cittadinanza, allora vai, mi dico, aspetta che glielo tocco subito. Scusa, anche uno si può pigliare i suoi ribiati a mangiare. Oppure si ha la gatta. Un gusto, tu gli dici, un meglio un gusto che c'è da malarmi, scusa, noi gli puoi citare tutto l'anno mangia di me se è passato. Se ti dici di cosa. Sì, magari, facendo così. Ti avrei calato la giornata, una volta però è così. Ti controllo la carta, capito, con ciò che spendi. Quindi, a un certo punto, vabbè, ti chiamo dopo che tu sei, un attimino. Ciao, ma poi a 6 minuti, ok? Ebbè! Graziano! Ciao Marino, ebbè! Entrato, c'era uno poc'anzi, o la ora e non è entrato, io non l'ho sentito però, hai preso Gio Maria che è andata così a Capicolino, a Vigio mio, si è fatto una passeggiata, i buoni, i ghisi. Io ho acceso adesso, ero all'altra parte, altre frequenze, sono ascoltato un po', ma qui ho acceso adesso. E allora, tutto a posto, grazie. Quello che è a posto. Sempre lo stesso, aspetta che mi è arrivato un messaggio, che lo guardo. Dai, già sono qua, dai. Ma fatti avanti, un pedalone che sta mettendo te, un curialista da te, e chiuse. Marino, ACC, Marino. Mi sta ascoltando un po' di spagnolo, sta ascoltando, grazie. Adesso ti mando una foto e così studi prima, ascolti prima, aspetta. Dai. Mica te l'ho spedita, mi abbia mangiato ora. Manda. Mandatatelo, e l'altro te l'ho mandato stamattina. L'hai visto il Kung Fu? Guardate, ma dopo l'ho cancellato, sai, un telefono mio ormai in giro, meglio cancellare subito. E guarda quella adesso, cappuccetto rosso. Non deve mandare queste cose a Marino, non deve mandare. Cazzo che da voi tanti fastidio alla signora, non deve mandare queste cose. Lei l'ha già mandato il cappuccetto rosso. E la giuvizia che si fa che su cappuccetto rosso in mezzo. Della giuvizia che sono manzano già. Hai visto che non va a far farro, va via. Non va a far farro, è deciso, no. E te? Sì che no. Oh, non è mandato Marino di Cicosi, Marino! Ciao, ciao di Gabbo! Marino non mi sente, grazie! Ah, sì, stai se rifendi luci! Ah, ma se la mai dente, grazie! Oh, chi si rimette a Maria con la bui? Sei Gerardo, grazie! Cos'è Marino? Esagerato proprio me, eh? Anche la vecina è a posto, dai. E allora, chi so è? Come si chiama? Lo giuraglioro. Si chiama così buono lucchetto, si buono, dai. E allora, Gian Maria è entrato, Gian Maria mia Marino. Ma non mi sente a me, io lo sento a lui, ma lui lo sente a me. Mari. Ma con ascolto, grazie, aspetta subito, dai. Adesso mi senti? Adesso ti sento, Giovanni. Rimango 2 minuti di ascolto, entro subito. A barra di ripenni. Non ti ne fa mandare queste cose, io dopo ti senti Maria con tu puro. No, mi sto mettendo gli occhiali con il seggio che stanno, Giovanni. No, sto ascoltando qualcosa, ma ti viene la radio. Dai, dai. L'occhiali se pure nasci non basti a me, Giovanni. Cos'è, grazie? Se pure negli occhiali con un dente cristalli a chi non la vedi a me. Ah, così è. E allora, lì va, la vista lì si è appannata. Cada c'è il cappuccetto rosso. Vai, vai. C'era Antonello, ha detto, aspetta che vada a farmi una bionda ed è sparito. Ma chi ci vuole sempre ola, e io non ho voluto fare un nome, però era San Pietro Pramodulente, capito? Non importa, però era Edu. Io vi ho preguntato e mi ha detto che aveva appena acceso, che non era Edu. La giurita adesso l'aveva inteso, Edu, ma tu non lo so, l'ho appena acceso. Di fine che sono curato prima Edu io. Ah, puttimuzzini, là, ah, puttimuzzini. Però strano, non lo sentivo io, invece, come mai poi l'ho sentito quando ha parlato? Quando faceva ola non lo sentivo, questa ola. Ah, senti, se lo faceva in sopramodulazione quando parlavi tu, grazie a... Ma insomma... Ah, quando parlavo io lo faceva. Ecco perché non lo sentivo io, invece tu l'hai sentito. Magari la Bruenna avessi mi dà fava. Tutti e due un poco di tappava, non assai però, capito? Ma era arrivata confusa uno e l'altro, capito? Disturbata arrivava, è logico. Quando va vedi sopra un altro, logicamente... Sì, secondo che distanza c'è, non comprende né uno né l'altro. Se magari uno è più vicino, magari lo disturba, ma già riesce a capire. Eia. Tore, non si è sentito? Oi, Tore, è appresso a Rigani. Rigani lo so perché non ha di a passeggiare. Se no, non si chiede a culo. Aspetta, forse è il 27. A chi? Non rimbiati, no, che capito? È il 27 sempre già, ma va diciamo io a vedere se fa. Prova, cos'è? Il traccato è il BMR. Ma rimbiati la 127. Perché bisogna usare anche quello, no? Non sempre occhio, no. I soliti noi siamo sempre il 23, ogni tanto entra Edu, Bacchisio e Cacatri, un muro, capito? Vabbè, ma io vanno nel piazzo, è già stato, appena mi piazzo un brava dai, già me lo metto in funzione e lo lascio acceso dentro il ripostiglio. Quando intendo Cacatri, lo ando a fare, vita. Aspetta, deve lasciare ancora correre di bicicletta con i cani appresso. Adesso che mi metto chi si luce che ha di un bolciare usare a carregarsi. Ciao Mari. Aspetta che c'è Torino. Marino. Cofarello. Già girato oggi già. Cuffetta. Beh, mi sono cassettato 10 minuti, Gio Maria è sparito. Oh, Marino è sparito, tu tira la 27 solo. Io sono appena rientrato, è tornata a funzione. In casa. Marina, ferma. Sono appena rientrato. Eia, lei ti ho chiamato, visto che non ha risposto stasera. Va bene. Grazie. Sai, ti chiamo prima io, prima che mi chiamarmi tu. Mio Martino mi ha fatto anche presto, quando vanno alla Lumache. Se non ha piovuto. Siamo andati a chi ha avuto piovuto, ne hanno trovato un bel, però presto dobbiamo andare, a buio. Magari all'Urintoria, ragazzi. Ma se vai in zona che ci sono alberi di olivo, se guardi negli alberi, nei buchi degli alberi, ce ne sono, ne trovi, perché loro fuggendo si imboscano anche lì. Già lo so che ne trovo, lo so. Io l'altra volta, quando tu chiedi vai la medaglia in erba in campagna, stavo guardando negli alberi, ho visto che ce n'erano imboscate, però le ho lasciate. Io ho trovato anche lumacconi lì, negli alberi delle olive, c'era anche il rose in mezzo. C'erano 2, 3 lumacconi, li prendevo. Se guardi rimani a me, fa che ce n'ha più. Lo so, è un paio di guanti, non vi do, un paio di guanti vici. Sì. Ti metti i guanti così non ti imbruttini manco le mani. Io quando vado, che capita, mi metto i guanti. A chi mi date partiti un buco quando rubrici ti fate la ciuma, ti sulisci i gulici che fate. E io mettevo quelli da cambiare, capito? Di quei guanti, o sono di quelli che si usano a lavare i piatti, che andano bene pure visti. No, lì se non andano bene si buccani. Sì, certo. Vabbè, ti sapono un po', comunque. Ce li ho quelli. Devo comprati per cantiere. E vabbè, io quelli in macchina di solito ce li avevo tutti e due tipi di guanti, a chi ti ritrattavo quando vado all'intonaco, fini, che sciacquavo la spugna, mi mettevo quelli, se non mi crepavano tutti le mani, leva, compresi. Aspetta, sto provando un tritatutto, che l'altro si è rotto e Marina l'ha comprato nuovo. Ma un trita carne. Ma quello che usi per fare la frutta, quello? Quello per tritare l'aglio e prezzemolo, capito? Ah, no, io quello per il prezzemolo e aglio ce l'ho a manovella, ve la giù una vita. Ma oramai non sto neanche più adoperando quello, già ce l'ho sotto il mobile. Perché lo compro già pronto, in scatoletta, l'aglio e il prezzemolo. No, noi lo facciamo noi, no, io. Eppure lo faccio io molte volte quando ne compro un bel prezzemolo. Che c'ho molto aglio, se no poi l'aglio si imbiuta. Me lo preparo io, ma con quello a mano faccio veloce. Già ce l'ho anche elettrico, ma quello elettrico il più cambio il pezzo, lo adopero per grattugiare il formaggio, il pane duro. Se mi capita non c'ho pane grattugiato, ne prendo un paio di pezzi di quello duro che c'ha una parte e lo grattugio, capito? Lo colo. Ho capito. No, vabbè, noi utilizziamo spesso e volentieri. Anche io lo utilizzo, però per il più lo utilizzo per il formaggio, perché quando mi rimane la buccia, diciamo, del formaggio, la pulisco col coltello, la taglio a pezzi e me lo grattugio. L'altra volta ho fatto un contenitore di quelli di gelato, tutto formaggio grattugiato, e era grana padano, parmigiano reggiano, e mica se lo lampavo, l'aggio pulito e me l'aggio grattugiato. E mi è uscita una vaschetta piena di formaggio grattugiato, parmigiano reggiano, proprio parmigiano. Ma questo qua è per trittare, Graziano, non serve per grattugiare. C'è anche quello il tritta. Vinaggio in priati, no? Pure quello che fa i succhi di frutta. Ti prepari tutto, capito? anche quello da gelato giù. Ma questo ce l'ho solo per frittare e basta, capito? Per grattugiare ci vuole la grattugia. Ah, il formaggio noi lo compriamo già grattugiato, quello in busta è buono. Eppure io lo compro già preso, già grattugiato, però quando compro il formaggio, la grucca, la burro con un cucchietto, la prego, poi la taglio a pezzi col coltello grande sulla tavola e me la grattugio, e invece il formaggio, capito? Il formaggio grattugiato, mica tirerà più la grucca del parmigiano reggiano, a chi scemo su? La metto in frigorifero dentro il contenitore, quando vedo che ce n'è un po' me lo grattugio. Vabbè, grazie, noi lo compriamo già grattugiato, dai, non ci sta qua, ma... capito? Stress, ma un po' di stress, grazie. Stress. No, ma basta lo stress che va giù. Mia, sai, sono entrando dalla zia di mia moglie, da Anna, che l'ha già fatto l'insulina, gli ho misurato la glicemia, a chi non va è buona è da farsi, dunque o gliela faccio io o gliela fa mia figlia. Capito, miai? Sì, grazie, ha capito zio. Vabbè, cosa ci vuoi fare, purtroppo, un casino. Va bene, a salve buono, 2 minuti, ma ho misurato la glicemia, che l'aveva 124, e prima di mangiare a mezzogiorno l'aveva 144, e poi gli ho fatto l'insulina. Mamma mia, alta, è sempre 190, è così, e di solito non mangia, e non mangia mai. Capito, non mangia mai, ma si è mangiato uguale. Allora l'ultima volta, la più alta è arrivata a 2,88. No, io stamattina ce l'avevo 131, prima di pranzo ce l'avevo 121, dopo me la misuro prima di cenare. E la notte che mi butta, che mi mangio sempre cacca e caramella, un pezzo di cioccolato, capito? Un attimo, grazie. Ehi, Luca, adesso chiudo, se ci sei, mi senti? Sì, grazie, vai, tranquillo, va. Tanto io mangio e poi salgo a casa. E domani devo alzare alle 3:30, alle 4 appuntamento. A domani, grazie, a domani tanto sono a casa io, dai, magari riesco a domani sera a fare, ma neanche domani sono d'uscita, poi siamo anche domani, ma forse un'oretta già ci sarò in radio, dai, ciao, grazie, buona cena, e saluto a Poletta anche da parte di Maria, ciao, anche da parte mia, ovvio, ciao. Ehi, ha ricambiato il tutto anche da parte di Paoletta, sta guardando oggi il Riscutti in TV, anche a Marina, ciao, buona cena. A domani se coincide. Salutoni a chi è in ruota, a chi è in ascolto. Ciao a tutti. Ciao anche a Gio Maria se ne ascolto. Ciao.